quando rompe, sozzalo con le sue budella. Troverò sempre dei compagni che si uniranno a me, senza prestare giuramento ad una bandiera. Avranno